get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera e ben ritrovate. Quella che state ascoltando è la 234esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz. Oggi in radio sono io, ci siamo io, Manuela, Stefania e Lucilla. Ciao! Ciao! Se volete contattarci potete farlo al telefono della radio 06 49 17 50 oppure inviateci un sms sempre molto gradito al nostro numero di cellulare 339 853 6270. Stasera vi leggeremo le tracce per i dibattiti delle assemblee politiche della 5 giorni lesbica che vi ricordiamo si terrà a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne dal 2 al 6 giugno e intanto vi invitiamo all'Assemblea Nazionale prima della scadenza di giugno per sabato prossimo 24 aprile sempre alla Casa Internazionale, appuntamento alle ore 11. I documenti sono già sul sito e vi ricordo che è www.5giornatelesbiche.org. Tutto attaccato e senza spazi. Pronti appunto i documenti per essere letti, modificati, arricchiti, eccetera, eccetera. Di seguito daremo lettura di appuntamenti vari. Rimanete con noi ed intanto ascoltiamo insieme il brano che ci dirà Stefania. Allora, sentiamo adesso Amy Can Be con la canzone Matthew and Mark. Mes amis, oh. Donc nous-mêmes, tout ici, nous n'avons connu les difficultés, non? Whoa. Donc nous-mêmes ici, nous voulons que les choses deviennent mieux, non? Il n'y a qu'à passer, il n'y a qu'à passer, il n'y a qu'à passer, il n'y a qu'à passer, il n'y a qu'à passer, à Bruo, il n'y a qu'à passer, à Bruo. Are you my friends? Yeah. Sometimes it's true, we have some worries. Yes. But you know, now it's time for change. Yes. And the only thing we got to do is we got to think positive. Getting positive, getting positive, getting positive, getting positive, bro. What? Getting positive, bro. What? Getting positive, bro. Whoa. Fula ini wote, fula ini, kamira mocha. Fula ina ulele, fula ini. Pula, pula. Vi sarete resi conto che la canzone è un'altra. Piccolo errore della diretta, come ben sapete. Queste sono le Zap Mama, è un CD che ho portato io, che amo moltissimo. La canzone è Furai e sono un gruppo di donne di colore con delle vocalist spettacolari degli anni 90, insomma, che però mi sembrano grandiose così come sono. Allora, intanto vi abbiamo promesso la lettura delle tracce per i dibattiti che si dovranno tenere nelle assemblee politiche della 5 giorni, che andrà dal 2 al 6 di giugno del 2010, quindi prossimo. Leggiamo la prima traccia che è già in discussione perché già è pubblicata sul sito e che potremo discutere ulteriormente il 24 all'appuntamento l'incontro nazionale di cui vi ha parlato già prima Manuela. Allora, la prima traccia si intitola Oggi e cerca di inquadrare in qualche maniera la situazione attuale ed è molto aperta, come sentirete. Vado, quanto vedi rappresentata la tua vita nei modelli presentati oggi dal mondo dei media e anche dalla politica istituzionale? Ad alcune di noi sembra che gli stili di vita proposti come normali, tra virgolette, cioè dati come maggioritari, siano più omogenei ed escludenti rispetto ad un passato recente. Per esempio, anche l'immagine di quale è una donna, che vita fa, quali desideri ha, che prospettive esprime, sembrano fortemente ridotti. I media presentano come normale una figura femminile che trova la sua espressione nella famiglia tradizionale, che lavora per necessità, che ha l'obbligo della prestanza e della giovinezza, ammiccante per il desiderio maschile. Le lesbiche in questo quadro dove e come si collocano? In questo scenario, qual è lo spazio pubblico abitato dalle donne e quindi dalle lesbiche? A livello della politica istituzionale è scomparso il dibattito nei luoghi deputati, Parlamento, media e società civile. Le decisioni vengono elaborate e prese altrove, in blocchi di potere tutti maschili. Negli scandali degli ultimi tempi è risultato chiaro l'uso delle donne nuovamente come merce di scambio, escort, compagnia, prostituzione e compagnia cantando. Oppure raramente collocate in sedi istituzionali prive di potere reale. Se le donne sono socialmente ridotte di nuovo a merce di scambio tra maschi, noi lesbiche, fuori per definizione dalle relazioni sessuali e affettive con gli uomini, come ci collochiamo? Oggi di nuovo la proposta che viene fatta circolare come unica è la famiglia tradizionale, dove le donne come mogli, madri, figlie, e l'altro è l'uomo, che si riserva un ruolo di tutore. In questo discorso la Chiesa Cattolica agisce una propaganda continua che, a causa della mancanza di laicità anche istituzionale, passa come morale universale, senza possibilità di messa in discussione. E un attimo solo, Manu, che poi facciamo lo stacchetto, come può essere letta questa situazione dalle lesbiche? Quale possibilità di integrazione o trasformazione ci interessa perseguire? Se non c'è la possibilità di partecipazione alle dinamiche della gestione sociale, se è stato costruito un quadro socio-culturale unilaterale in cui viene ritenuto legittimo e decoroso solo un modello di vita, se la lettura patriarcale della società, subordinazione di un sesso all'altro, è incontrastata nello spazio pubblico, possiamo parlare di fascismo o di fascismi? Negli ultimi anni abbiamo assistito anche all'eclatanza di aggressioni fasciste, gli stupri di Torre del Lago, Forza Nuova che blocca il Pride a Catania, per esempio. Ma potremmo rintracciare la matrice profonda del fascismo nell'obbligo ad un comportamento omologato e nell'assenza di spazi di espressione. Negli ultimi anni sono stati normalizzati discorsi di odio verso tutte le diversità, in specifico anche contro le donne e le lesbiche. Questi discorsi hanno trovato spazio nei luoghi più alti della politica istituzionale, proposti da esponenti delle destre e dal Vaticano, spesso come con il complice silenzio delle sinistre istituzionali. Per esempio, quando la proposta di legge Concia contro l'omofobia è arrivata alla Camera, è stata respinta attraverso discorsi che equiparavano omosessualità e lesbismo alla pedofilia, alla necrofilia, alla zoofilia. Peccato non ci hanno messo anche i termosifoni, aggiungo. Alcune di noi leggono in questi discorsi l'istigazione all'odio e quindi la legittimazione del fascismo del manganello. Questa lettura rende per noi necessario definirsi antifasciste? Ma oggi cosa significa per noi essere antifasciste? Nella società attuale sta di nuovo prendendo corpo una forte divisione di classe, accentuata dalla crisi economica e dall'erosione dello stato sociale. Ma le donne, e quindi le lesbiche, tutte appartenenti ad ogni classe, subiscono una medesima sorte di subordinazione e quindi sfruttamento. Anche se i livelli di sfruttamento sono diversi, resta immutata la subordinazione che passa attraverso tutte le classi sociali: la puttana di strada, la escort, la professionista che non entra mai nella stanza dei bottoni e l'operaia che è la prima ad uscire dal mercato del lavoro, la studentessa a cui viene eroso il diritto allo studio e la precaria che non ottiene mai una stabilità lavorativa che le permetta l'indipendenza. Ha senso oggi per noi lesbiche un'impostazione anticlassista, cioè assumere l'idea che la classe di appartenenza non debba condizionare la possibilità di affermazione sociale? O ha più senso affermare che è l'appartenenza al genere femminile a determinare in maniera significativa l'eventuale svantaggio? O è l'interconnessione tra queste due diverse oppressioni? Il sistema patriarcale, individuato e descritto dalle femministe, si esprime in diverse forme, ma la matrice è unica, quella del sessismo, che vuole le donne subordinate e sfruttate. Il patriarcato persegue per ottenere questo stato di subordinazione, forme violente e diversificate a seconda dei luoghi e delle culture. Negli ultimi 40 anni il nostro paese è passato da essere una terra di emigranti a meta di immigrazione e quindi oggi assistiamo all'incontro non solo genericamente con altri popoli, ma ai loro vari portati culturali. Noi ci poniamo la domanda di come dialogare con altre donne che provengono da altre terre, altre storie, altre vite. A maggior ragione, quando queste donne entrano in contatto con noi nella quotidianità e ci mostrano la nostra parzialità nel concepire l'autonomia e l'autodeterminazione. Riteniamo che le loro mutilazioni genitali, un esempio tra tutti, siano molto diverse dal nostro burka taglia 42? È molto diverso il comportamento delle madri italiane che difendono i loro figli stupratori da quello di donne migranti che, in un paese che non le vuole, difendono la cultura dei loro paesi d'origine che pure le reprime? Le lesbiche, per sopravvivere, hanno bisogno di spazi di vivibilità, possibili solo in contesti democratici. Oggi, lo Stato italiano, che si definisce democratico, ha istituito luoghi di reclusione, i CIE, centri di identificazione ed espulsione per migranti, per persone che non hanno commesso alcun reato, tranne non avere il permesso di soggiorno. E in quegli stessi CIE, le donne sono sottoposte alla doppia violenza della reclusione e della cultura dello stupro. Riteniamo che questo discorso non ci tocchi? Che questa estrema repressione della libertà e dell'autodeterminazione non ci riguardi? Negli ultimi tempi in Italia, nonostante l'esperienza di migrazione che abbiamo avuto per oltre un secolo, assistiamo alla costruzione di una nuova identità nazionale, razzista ed escludente, che da una parte brandisce il crocifisso come un'arma in ottica anti-islamica, dall'altra usa il discorso sulla libertà delle donne, quindi anche di gay e lesbiche, per giustificare politiche razziste. Si dice cioè, in un paese che sappiamo fortemente misogino e antilibertario, che le culture di persone che arrivano da altri paesi soffocano la libertà delle nostre donne e, per estensione, sebbene non dichiarata, anche di gay e lesbiche. Pensiamo davvero che la repressione contro di noi venga dall'esterno? E d'altro canto, possiamo costruire la nostra libertà sulla sottrazione violenta di libertà di altre ed altri? Infine, come lesbiche di un paese del G8, possiamo sottrarci alla riflessione dello sfruttamento dei paesi del terzo mondo? E con questo abbiamo concluso la lettura della prima traccia, che sarà la traccia di discussione della prima assemblea nazionale che si terrà durante le cinque giornate lesbiche, come abbiamo detto prima, dal 2 al 6 di giugno. Adesso ci sarà un brano musicale che dirà naturalmente Stefania e dopo passeremo alla seconda traccia. Ok, allora speriamo di riuscire a farvi sentire la canzone giusta questa volta. C'è Lucinda Williams con Joy, è una canzone molto bella della colonna sonora di Crazy Heart. Ti dico una cosa, tu nell'orata il come dei documenti delle cinque giornate. Quando hai scoperto di innamorarti delle donne, di provare passione per persone del tuo sesso, qual è stato il primo impulso che hai provato? La prima reazione? Fuggire o sperimentare? C'è stato un conflitto tra questo nuovo desiderio o nuova consapevolezza di averlo e l'immaginario sociale in cui ti vedevi o eri vista? Alcune di noi chiamano quell'immaginario sociale e dunque collettivo obbligo all'eterosessualità, costruita e presentata come opzione primaria, giusta, unica e naturale. Alcuni segmenti del lesbismo politico, in particolare degli anni Ottanta, a partire da testi fondamentali quali Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica di Adrian Rich del 1985 e The Straight Mind di Monique Wittig, hanno fatto della lotta dell'eterosessualità obbligatoria il centro delle proprie politiche. Oggi ha senso questa impostazione? Se il potere propone ancora un'unica scelta, opzione primaria, giusta e naturale, dove collochi l'esistenza lesbica? È ancora necessario analizzare il sistema dell'eterosessualità obbligatoria come un sistema che serve al controllo delle lesbiche e di tutte le donne? Questo tipo di lettura è ancora attuale? Questi ragionamenti nascono nei gruppi lesbofemministi degli anni Ottanta e quindi dalla relazione politica del lesbismo con il femminismo, relazione che nella stagione politica attuale ha prodotto soprattutto riflessioni sulla violenza maschile sulle donne e pratiche di lotta conseguenti, sfociate nelle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre. La violenza maschile sulle donne viene letta in questo contesto come un fenomeno strutturale del patriarcato alla base della nostra società, improntata dal sessismo, che a sua volta prevede lo sfruttamento di un sesso da parte dell'altro. Possiamo dire che la violenza maschile è un'esperienza di tutte noi? Nelle nostre famiglie d'origine, la violenza è ancora oggi uno strumento cruento e coercitivo di controllo e ostacolo del desiderio femminile e quindi anche di quello lesbico? Le statistiche ufficiali Istat ONU riferiscono dati allarmanti sui femminicidi e sugli stupri, la maggioranza dei quali avviene tra le mura domestiche, ma riferiscono anche che le possibilità di riuscita sociale e lavorativa delle donne sono fortemente ostacolate e penalizzate. Ancora una volta, la lettura che alcuni di noi danno di questi dati è il sessismo. Nelle nostre esperienze esiste anche una violenza maschile specifica contro il corpo delle lesbiche? Negli ultimi anni sono avvenuti episodi che ci fanno pensare che le lesbiche vengono stuprate in quanto tali, tanto che spesso questi stupri vengono perpetrati vicino a luoghi di socialità lesbica o in conseguenza della visibilità politica delle lesbiche. Lo stupro e la minaccia dello stupro rappresentano un avvertimento potente che sottende il libero accesso al corpo delle donne. Un altro punto d'incontro tra femministe e lesbiche è stato rappresentato dall'analisi della famiglia come luogo dell'oppressione delle donne e delle lesbiche. Stupri e femminicidi rappresentano l'aspetto macroscopico di questa oppressione che in termini generali tende a limitare o addirittura impedire l'autodeterminazione, la possibilità delle donne di scegliere per sé. La famiglia, d'altro canto, ha molto a che vedere con le istituzioni, essendo centrale nell'organizzazione sociale. Ma questo è un problema per noi? Quanta parte delle nostre vite è compatibile con questa visione che struttura l'intero stato sociale, il diritto, la cura e l'affettività solo sulla famiglia? La storia dei movimenti delle lesbiche e delle femministe è stata costellata di incontri e abbandoni, teorie politiche, analisi delle realtà e lotte, fra cui quelle che abbiamo citato fino ad ora, che li hanno avvicinati e allontanati. Oggi ha senso per noi cercare momenti di incontro, ma anche di scontro con le realtà dei movimenti delle donne? Nell'esperienza di donne e di lesbiche ci sono varie modalità del fare politica. Tra queste il separatismo è una che è una pratica molto variegata, non monolitica, che prevede incontri tra solo donne, spazi separati, lotte condotte con le donne, per le donne, ma anche privilegiare la produzione culturale di donne, libri, film, arti.

Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa 06 49 17 50, lasciar squillare una volta e riagganciare. Eccoci qui, tornate in onda, e vi leggo appunto il documento Domani, che è l'ultima traccia. Partecipare ad una 5 giorni lesbica significa che attribuiamo alla nostra scelta una valenza politica? Viene detto che non essere lesbica è un orientamento, una scelta sessuale, una condizione di vita, un'espressione del desiderio. Ma cosa ci ha portato qui a condividere 5 giorni di cultura, arte, confronto, lavoro, chiacchiere e divertimento? Riconosciamo delle affinità tra tutte noi che travalicano la semplice scelta sessuale? Possiamo dire che può esserci uno sguardo sul mondo che ci accomuna? Una visione che potenzialmente potrebbe essere collettiva? Questa visione ci porta a voler essere incluse o ci fa sentire escluse dalla società così com'è? Riteniamo comunque che le lesbiche siano o possano essere una soggettività e quindi anche un soggetto politico, per quanto non omogeneo? Partecipare alle 5 giornate lesbiche per noi è un atto politico? Partecipare a manifestazioni come lesbiche, come per molte accade nei Pride, è per noi un atto politico? Avere scelto di perseguire il nostro desiderio, anche controcorrente rispetto ad una società che non ci propone il lesbismo come una scelta, è un atto politico? Questa prima scelta politica come può trovare continuità coerente con le altre iniziative? Cosa ti aspetti dalla politica lesbica? In quali azioni politiche ti riconosci? Nelle politiche che hanno come obiettivo l'uguaglianza, la parità dei diritti, in altre parole l'inclusione nella società così come oggi, in quelle politiche che partono dalla specificità omosessuale per equipararla a quella eterosessuale, ad esempio attraverso il matrimonio o le adozioni, eccetera. E in questo caso possiamo immaginare anche nuove forme di relazioni sociali affettive che ci collochino all'interno di un sistema che riconosca le nostre specificità, favorendoci per esempio anche rispetto alle questioni strettamente amministrative, come ad esempio la reversibilità della pensione o quant'altro, che sembrano essere uno dei motivi fondamentali delle richieste di riconoscimento. Oppure in quelle azioni che intendono prima di tutto mettere in discussione l'impianto eterosessista della società per poi trasformarlo radicalmente, dando spazio alle differenze come arricchimento e forze propulsive per avviare il cambiamento stesso? Ritieni oggi prioritario un riconoscimento istituzionale che potrebbe garantire politiche sociali e culturali positive per combattere la lesbofobia, i pregiudizi, l'emarginazione, proponendo il lesbismo come un'opzione legittimata? In altre parole, cosa si accosta di più alla tua esperienza di vita? Affermare che il tuo desiderio non previsto da questo ordine sociale è legittimo in quanto tale e, destabilizzando l'ordine stesso, ha una potenzialità trasformativa. Ritenere che il tuo stesso desiderio debba essere riconosciuto a livello istituzionale e la sua istituzionalizzazione rappresenta di per sé una trasformazione della società? Ritenere che il tuo stesso desiderio debba essere riconosciuto a livello istituzionale. Ah no, scusate, ho sbagliato. Lì rileggevo la stessa cosa. Essere socialmente previste, incluse, riconosciute, contiene in sé la potenzialità di agire il cambiamento, oppure accettare l'inclusione in questa società cancella la nostra capacità di trasformazione? In questi ultimi anni segmenti diversi del movimento delle lesbiche hanno abbracciato entrambe queste letture. Quali limiti hai riscontrato in queste politiche e quali elementi di forza ne hai tratto? Ti dà più forza pensarti fuori della norma e quindi potenzialmente eversiva della norma stessa, o collocarti come una cittadina che vuole gli stessi diritti di tutte, tutti le, gli altre, altri? Ma quali sono questi eventuali diritti cui aspirare e quali le eventuali norme da sovvertire? Ma che si voglia l'una o l'altra cosa, riteniamo di essere un soggetto politico che lotta per affermare questi principi? Inoltre, le due posizioni che abbiamo proposto come oppositive, ma che hanno entrambe l'obiettivo del cambiamento, possono trovare momenti di integrazione tra loro? Scegliere una delle due posizioni significa sottrarre qualcosa all'altra? In entrambe le ipotesi, quale livello di trasformazione ipotizziamo? Qual è il mezzo e qual è l'obiettivo? Allora, mandiamo adesso l'ultimo brano, Amy Can Be con Yellow Sweet. Allora, la sigla degli appuntamenti la mettiamo? Anche perché adesso andiamo con gli appuntamenti, sono ricchissimi. Gli appuntamenti. Allora, avete visto, avete sentito, anzi meglio ancora, la nostra bellissima sigla degli appuntamenti. Dunque, allora, la prima cosa che vi vogliamo dire, naturalmente noi come CLR partecipiamo, siamo abbastanza attive all'interno dell'evento che si terrà sabato a dicembre, veramente sarebbe a giugno, e che è le 5 giornate lesbiche, che sarà la casa, vi ricordiamo che la Casa Internazionale delle Donne sarà tutta delle lesbiche qui a Roma, tutta, completamente affittata. Quindi dal 2 al 6 giugno ogni anfratto della Casa Internazionale delle Donne di Roma trasuderà lesbismo, va bene? Allora, cosa sono le 5 giornate lesbiche? Una grande iniziativa che si svolgerà dal 2 al 6 giugno di quest'anno a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne, e a cui desideriamo che partecipino tutte le lesbiche con testimonianze, idee, entusiasmo ed interesse. Assieme alle donne che hanno partecipato finora alle assemblee preparatorie, abbiamo individuato un titolo per queste 5 giornate lesbiche, e il titolo è carino, si chiama Filo Viola, due punti, mutamenti, autorappresentazioni, progettualità. Cosa faremo? La Casa Internazionale sarà a nostra completa disposizione per workshop, laboratori, installazioni artistiche, performance, archivi guidati, dibattiti, letture di poesie, proiezione di corto e lungometraggi, concerti, spettacoli e assemblee di confronto sui temi che percorreranno il mondo lesbico, che percorrono, scusate, e speriamo che continuino a percorrere, diciamo noi, il mondo lesbico anche da punti di vista e prospettive diverse. Di cosa si parlerà? Abbiamo individuato alcuni macro temi: teoria politica, diritti, sessualità, teatro, cinema, arti visive, letteratura, poesia, musica, relazioni. Tra questi ambiti si articoleranno e si intrecceranno le proposte e le diverse espressioni di tante lesbiche. Allora, potrete poi andare a visitare il sito, che è, non me lo ricordo più, www.5giornatelesbiche.org, tutto di seguito attaccato, e scrivere all'indirizzo info@5giornatelesbiche.org per prendere dei contatti. Il prossimo appuntamento, come avevamo detto prima, è il 24 aprile prossimo, e in via San Francesco di Sales 1B, dalle ore 11 ci sarà l'assemblea. Ultima cosa rapidissima che diremo è che tra le varie cose ci sono dei concorsi, cioè il concorso di produzione video per la produzione di un corto sul lesbismo di tre minuti, il cui contenuto andrà consegnato entro il 10 maggio all'associazione Fuori Campo, casella postale 22006, Agenzia Emilia Levante, Bologna, ma anche questo troverete tutto sul sito. Poi un racconto al giorno, concorso di racconti a tematica lesbica, poi Lesbiche in Arte, esposizione di opere sulla visibilità lesbica, e La Canzolella, concorso di canzoni originali a tematica lesbica. Tutte vanno consegnate tra il 5, il 10 e il 15 maggio, però troverete tutte le informazioni sui vari casi che vi interessano sul sito, che vi ripetiamo è www.5giornatelesbiche.org. andate, visitatelo e partecipate. Vai con la musica. Proseguono gli incontri dei 5 fine di settimana di politica. Sabato 24 aprile il quarto incontro, dalle ore 11.30 alle 17. Roma, sede nazionale dell'UDI, via dell'Arco di Parma 15. Avere un corpo fertile. Narrazioni di Fabia Loappala, Federica Voci, Valentina Sonzini, Claudia Bruno. Restituzione di Laura Piretti. Progetto Piacere Sicuro, proteggila. Nell'ambito del progetto appunto Piacere Sicuro, il Circolo Mario Mieli ti invita a partecipare al gruppo di discussione per donne Proteggila, per approfondire insieme i temi riguardanti la prevenzione, la propria salute, l'importanza dei controlli, la sessualità. I gruppi saranno facilitati dalla presenza di una psicologa. All'occorrenza sarà prevista la partecipazione di uno specialista. Ti aspettiamo martedì 27 aprile dalle 18.30 alle 20. Gli incontri si terranno presso la sede del Circolo Mario Mieli, in via Efeso, numero 2 a barra A, metro B, San Paolo. Per info, piaceresicuro.it, la mail è info@piaceresicuro.it, telefono 06 54 13 98 5. Ok, rapidamente, perché siamo in chiusura, c'è la prima festa del cinema LGBTQ della capitale, che si intitola Queering Roma, dal 23 al 25 aprile 2010 presso il nuovo cinema Aquila, via L'Aquila 68, quartiere Pigneto Roma. Il sito da visitare è www.queeringroma.it e l'info è 339 81 64 158. Vi diciamo che i film vengono da praticamente il Festival di Torino, e per il resto andate a visitare ovviamente, ovviamente il sito, come vi abbiamo detto, in modo che rapidamente possiamo darvi altre notizie. Allora, 30 aprile, cena di Valpurga dal tramonto. 1 maggio, sabato alle 17.30. Nicoletta Poidimani presenta il suo libro Difendere la razza, identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, edizioni Sensibili alle Foglie 2009. Dalle 19.30, festa del Calendimaggio. Venite a festeggiare la famosa notte delle streghe del nord, immergendovi nella natura della porta. La notte di Santa Valpurga deriva storicamente da un'antica festa primaverile, nella quale le donne salutavano l'arrivo della nuova stagione con fuochi, danze, canti e banchetti. Sulla notte, si diceva, vegliava la grande madre della fertilità che governava il desiderio dei viventi. Dal tramonto fino a notte fonda, canti, musica e danze sfrenate, regali, letture di tarocchi, preparazione di pozioni incantevoli e incantesimi intorno al falò. Ok, rapidamente, se vi interessa, presso la libreria Gabi International a via Gabi 30, telefono è 06 70 45 2498, ci sono i prossimi incontri che si terranno il mercoledì 21 aprile, Disegnare il nudo, un corso di livello di 6 lezioni sul disegno del nudo. Mercoledì 21 aprile alle 18.30 invece c'è una conferenza di bioenergetica e intelligenza istintuale, e venerdì 23 aprile alle ore 21 avrà luogo la proiezione di Isle of Lesbo, l'isola di Lesbo, per Rainbow Cine. Allora, mercoledì 21 aprile alle 11, questa volta alla Casa Internazionale delle Donne, sì. I colori della cittadinanza, guida rapida ad una città plurale per donne migranti. Va bene. Poi, sempre mercoledì 21 aprile, stavolta alle 18, presentazione del libro di Ivana Zomparelli, La storia strana di Marco e Amulio nell'antica Roma, edizioni associate. Ne parleranno Marina Pivetta, Daniela Monteforte, Laura Amadori. E l'incontro sarà a cui parteciperà anche l'autrice. Organizza Zora Nesso Larson. Giovedì 22 aprile alle 17.30, sempre alla Casa delle Donne, presentazione del libro Bioetica senza dogmi di Luisella Battaglia, editore Rubettino. Giovedì 22 aprile, ore 17.45, la consulta di Bioetica e Vita di Donna Onlus invitano all'aperitivo bioetico nell'ambito dell'incontro Salute e Autonomia delle Donne ai tempi della RU 486, ed è organizzato dal Consorzio Casa Internazionale delle Donne. Giovedì 22 aprile, ore 18.30, proiezione del film a tematica lesbica, Ahimè e Jaguar, del 1999. A seguire Paragraph 175 del 1999. Organizza Coordinamento 5 Giornate Lesbiche. Venerdì 23 e sabato 24 aprile, seminari di studi matriarcali, In questa presentazione, in questo seminario, si introducono i modelli studi matriarcali, quindi potrebbe essere anche questa una cosa abbastanza interessante. Presentano Heide Göner Aderbrut, Germania, e Genevieve Vaughan, USA Italia, traduzione dal tedesco di una donna. Va bene, potete visitare il sito www.casainternazionaledellecdonne.org per avere ulteriori informazioni. Ultima notizia, ma rapidissima, poi ve ne daremo tante altre nelle prossime situazioni, è che si tiene lo stage di Vendo a Torino tra il 15 e il 16 maggio 2010. È lontano, ve lo ricorderemo, però ci interessa dirvi che il Vendo è una pratica di autodifesa femminista che si tramanda tra donne, e quindi, non so, facciamoci un pensierino sopra. Penso che possiamo salutarci. Eh sì, penso che il nostro tempo è scaduto. La settimana prossima andremo con questa trasmissione in replica, però stasera siamo in diretta e vi salutiamo. Vai! Vai, ciao a tutte e alla prossima volta. Ciao! Allora, ciao da Lucilla, ciao da Stefania e ciao da Manuela. Buonanotte. Buonanotte. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Believe.